Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Beh, oggi è una di quelle giornate da svolta storica economica, ma questo non significa che sia meno importante, perché poi l'economia riguarda tutti noi, sentiamo. But I expect that inflation will return and the influence of lower energy prices and inflation lower goal. Janet Yellen sarà la protagonista oggi perché? Beh, perché la Federal Reserve annuncerà, non l'ho ancora annunciato, ma tutti siamo sicuri che lo annuncerà, l'aumento dei tassi di interesse. Beh, era da 9 anni che l'America non si confrontava con tassi al rialzo e da quasi 7 anni non ha mai avuto tassi di poco superiori allo zero. Ma oggi il pronostico sul nuovo corso, su questa svolta, di cui abbiamo parlato più volte, anzi alcuni di voi ricorderanno che io sono stato critico nei confronti della Fed perché aveva scelto di non aumentare i tassi magari nella seduta di 6 settimane fa. Eppure, insomma, oggi taglia la testa al toro e va avanti. Vi dicevo, il pronostico non riguarda tanto l'impatto sui mercati o sull'economia, secondo me su entrambi sarà alla fine piuttosto blando, quanto il possibile avvio di una nuova fase economica, di riforma economica per gli Stati Uniti, è una fase che si posiziona già, che guarda già al post Obama, una fase caratterizzata da una parte da una continuità di tassi che comunque saranno molto molto bassi per molti anni, perché alcuni di voi si domanderanno, ma insomma aumentano i tassi e dunque che succederà? Beh, succederà che il dollaro continuerà a rafforzarsi, però non di tanto, perché alla fine questi tassi aumenteranno in modo molto graduale e il pronostico è che l'interbancario entro i prossimi 2 anni salirà, come dire, al massimo a un livello del 2%, dunque tassi molto contenuti rispetto alla media storica. Ecco, dall'altra invece parte, secondo me, una nuova sfida, una sfida con cui si devono confrontare gli Stati Uniti nel medio termine, e cioè una sfida per riforme strutturali. Ecco, ma come direte voi? L'America, il paese della flessibilità, della libertà, dell'apertura, soprattutto in materia economica e finanziaria, ha bisogno di riforme di cui si parla soprattutto in Europa? Ecco, non esattamente, perché qui stiamo parlando di riforme di altro genere, ma trovo molto interessante che intervenga questo termine riforme strutturali, e l'ho sentito, devo dire, menzionato da più persone, da economisti importanti, dall'ex capo economista della Federal Reserve, Stockton. Sono riforme molto diverse da quelle europee e diventano a questo punto riforme importanti e ovviamente difficili per superare che cosa? Beh, quel rischio di stagnazione secolare di cui si parla ormai da alcuni anni, cioè dalla fase storica, dal punto di vista dell'economia, successiva alla crisi del 2007-2009. Le riforme di cui ha bisogno l'America dovrebbero rispondere al malessere, a quel malessere che qualcuno come Larry Summers definisce secolare, malessere secolare dell'America, quello di un forte aumento del gap fra ricchi e classe media, quello di un sistema fiscale che non contribuisce a una redistribuzione dei redditi o di un sistema sanitario che consuma a parità di servizi almeno 6 punti, pensate, 6 punti percentuali di PIL in più rispetto alle medie europee. Oppure di un altro malessere, di nuovo, e condivido assolutamente, strutturale, cioè delle aspettative che fondi di investimento hanno sui risultati trimestrali dei titoli in cui investono. Ecco, e queste aspettative costringono i grandi gruppi americani a puntare ad orizzonti di breve piuttosto che di medio o lungo termine, come dovrebbe succedere invece in un'economia sana, in un'economia che dunque è in grado di mantenere una certa forza lavoro perché sa che il mercato tornerà e così via, così via. I'm pleased to announce America's newest high-tech manufacturing hub, which is going to be focused on the next generation of power electronics. Ecco, queste non sono riforme che potrà fare l'amministrazione Obama. Avete sentito Barack Obama? Barack Obama ha cercato di prendere molte iniziative, per esempio nel settore manifatturiero, per esempio nel rilancio dell'economia con azioni di politica fiscale, per esempio sull'ambiente e così via, così via. Anche quelli, tutto sommato, sono aspetti strutturali. Però queste sfide di cui vi parlavo appena poco fa dovranno essere dibattute nella corsa elettorale americana, perché riguarderanno la prossima amministrazione. Ecco, se non si farà nulla, vi dicevo, avremo i presupposti che confermeranno la prima riflessione, quella di cui vi parlavo poco fa, in considerazione dell'aumento atteso dei tassi di interesse. Tassi di interesse che, proprio per la mancata soluzione di alcuni di questi problemi strutturali che tengono l'economia un po' ferma e che quindi non generano inflazione, ecco, il ciclo si chiude, resteranno bassi per molti anni, addirittura per alcuni decenni. Ecco, qualcuno si sorprende, perché la nostra memoria di tassi sui buoni del tesoro che rendevano il 7%, il 5%, il 6%, l'8% e così via, così via. In realtà, devo dire, ho visto ieri un articolo molto interessante sul New York Times che prevede che anche nel medio e lungo termine non si arriverà a tassi superiori al 4% e lancia, come dire, una nuova sfida, cioè parla di un ritorno alla normalità. Perché un ritorno alla normalità? Perché questo articolo molto analitico ricorda che per lunghi periodi storici, su un arco che vi posso dire di 200 anni, i tassi di interesse americani e quelli britannici, poi le due economie andavano molto in parallelo, sono sempre rimasti molto bassi, con periodi ad esempio fra il 1876 e il 1919, questo per l'America, poi di nuovo fra il 24 e il 58, i tassi sui buoni del tesoro decennali erano inferiori mediamente al 4%. E il New York Times scrive una cosa molto interessante, dice: ma il periodo abnorme in realtà non è questo in cui i tassi erano molto bassi, ma è quello compreso fra il 1970 e il 2006, quando i tassi di interesse sui bond decennali sono stati mediamente del 7,3%. Ecco, posso anche ricordarvi che abbiamo avuto delle punte, perché parliamo di media, dei rendimenti che sono arrivati anche al 17% per la Gran Bretagna, parliamo di fine anni 70, il 14% in America, metà anni 80, no? L'era Volcker, naturalmente. In quegli anni si cercava di combattere una battaglia epocale contro un'inflazione galoppante. Ecco, quella battaglia oggi i pronostici ci dicono che non c'è più. I expect this to occur as the temporary factors that are currently weighing on inflation wane, provided that economic growth continues to be strong enough. Ecco, di nuovo la Yellen. Cosa farà la Yellen fra poche ore? L'annuncio arriverà intorno alle 2 del pomeriggio, ora di New York, quindi circa le 8 di sera, ora italiana. Beh, la Fed comincia a aumentare i tassi per giocare d'anticipo sulla possibilità, udite udite, che da qui a un anno e mezzo l'inflazione possa raggiungere l'obiettivo dichiarato e mai raggiunto negli ultimi anni del 2%. 2%. E dunque il messaggio è chiaro, nervi saldi, vi racconterò poi domani che cosa ha detto la Yellen, quali sono le sue considerazioni e così via, così via. Ma nel complesso aspettatevi questa notizia, aspettatela, accoglietela con nervi saldi, perché i mercati terranno. Oggi i mercati si preoccupano più del petrolio che dei tassi, e perché il nuovo corso, e qui sottolineo, contrariamente a quel che dicevano mille Cassandre anche nostrane, non sarà traumatico, e perché la nuova sfida riguarda la nuova e difficile trasformazione americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Mario24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo sempre nello spirito natalizio, ci avviciniamo al Natale, un classico che adoro, di Bing Crosby, Silver Bells. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them ring, ting-a-ling. Soon it will be Christmas day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile, and on every street corner.